Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla sesta puntata dedicata alla lettura del romanzo Extenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle tecniche di scrittura di un romanzo, osservando che ce ne sono varie, anche molto diverse tra di loro, e che non ce ne sono migliori o peggiori, ma solo più o meno adatte a uno scrittore. Oggi torniamo a parlare della saga dei notturni. Nelle prime puntate vi ho raccontato di come sia cambiata, per così dire, la prospettiva di Extenebris, che tra l'idea iniziale e l'effettiva realizzazione è passato da un romanzo sul soprannaturale a un romanzo fantasy, per allungare la sua prospettiva da singolo, per poi primo di una trilogia, infine primo di un'esalogia. Ovviamente nell'ampliarsi della storia, anche i confini, per così dire, fisici della vicenda potevano e dovevano allargarsi. Quando ero un semplice lettore, mi piaceva che i romanzi fantasy fossero accompagnati dalle mappe dei mondi dove erano ambientati. Le studiavo, le osservavo, seguivo gli spostamenti dei personaggi su di esse. Erano un necessario complemento al romanzo, come lo era una copertina evocativa. Quello che mi domandavo spesso però era: che cosa c'è oltre i bordi delle mappe? Perché i mondi che vengono descritti sembrano concentrare tutte le cose importanti che avvengono in una zona che, qualche volta è più, altre meno, è racchiusa in poche centinaia di chilometri quadrati. La prima trilogia dei notturni è un po' così, con un'ambientazione concentrata su una parte relativamente limitata, con accento la Selvatra e la Rocca delle Tenebre. Si tratta di una scelta ponderata, legata alla storia che stavo narrando, e mi è sembrata sin da subito azzeccata. Mettere troppa carne al fuoco temevo di confondere il lettore, che ho invece provato a portare per mano, facendogli scoprire questo mondo poco a poco, attraverso gli occhi dei protagonisti. Non a caso del primo e del terzo romanzo, la mappa, pur rimanendo identica, si è andata arricchendo di nomi e simboli che corrispondevano ai luoghi scoperti mano a mano dai personaggi e quindi dal lettore. Quando, verso la fine della stesura della Guerra del Buio, che concludeva la prima trilogia, mi resi conto che avevo ancora molte storie da raccontare. Realizzai anche che mi sarebbe piaciuto fare quello che non avevo potuto fare come lettore, cioè esplorare che cosa c'era fuori dei confini della mappa. Tra l'altro, all'epoca, avevo più volte dichiarato che la saga si componeva di soli tre romanzi, tanto che i lettori più vecchi parlano spesso della trilogia di Notturni. Nel momento in cui dovevo decidere se finire la narrazione con il terzo romanzo, oppure proseguire e affrontare i gravosi impegni di una nuova trilogia, mi sono detto che uno sforzo di tale portata, sia da parte mia nel scriverlo che da parte dei lettori nel leggerlo, valeva veramente la pena se fossi riuscito a presentare Notturni con una prospettiva nuova, allargata. E dunque il mio sforzo maggiore è stato quello di incastonare la mappa con gli avvenimenti della prima trilogia in una mappa più grande, dove la scala era quella dei continenti, con un oceano di mezzo. Non vi nascondo che si è trattato di uno sforzo epico, che lì per lì mi è sembrato quasi impossibile. Inventare non più un pezzettino di mondo, ma un mondo intero, con tanti popoli nuovi, ma renderlo omogeneo con quanto scritto fino a quel momento, quando non ho neppure idea di quanto avrei fatto in seguito, è stato molto difficile. E, proprio per questo, ora è particolarmente piacevole guardarsi alle spalle e compiacersi del risultato ottenuto. Ok, per oggi direi che può bastare. Possiamo passare alla lettura del sesto capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 6. Thomas Travers aveva la sensazione di essere stato travolto da un cavallo dagli zoccoli infuocati. Non c'era parte del suo corpo che non gli dolesse di un male profondo, intrecciato con la sua carne fin dentro le ossa. Si toccò il petto con cautela, ora che le memorie tornavano a galla una a una. Si ricordò la zampata della creatura, che gli aveva lacerato il torace. Riconobbe i profondi solchi lasciati dagli artigli, ma con sorpresa scoprì che si erano cicatrizzati. Si guardò intorno ed ebbe un sussulto. Non era più nella stanza di ospedale. Il buio si riapprendeva appiccicoso attorno a lui, in un abbraccio umido e maleodorante. Cercò di penetrare con lo sguardo la coltre che l'avvolgeva, ma invano. Non riusciva a vedere più in là di una dozzina di metri. Sembrava essere la cima di un monte, ma tutto quello che si distingueva erano alcune masse scure di fronte a lui, forse cespugli, avvinghiate a rocce dalla forma squadrata. Una ripida parete rocciosa si innalzava nel buio alle sue spalle. Rabbrividì. Non riusciva a credere che fosse veramente successo. Notturni esisteva veramente, non era un fiore malato nato dalla mente di Blake, non era che aveva poi attecchito e germogliato anche nella sua. Diana si guardò intorno, vide poco più in là un mucchietto di stracci gettato a terra come fosse vuoto. Si avvicinò con delicatezza e scoprì il volto pallido, dagli occhi profondamente cerchiati. Appoggiò la mano sulla fronte, bruciava. Era scossa da brividi e le sue labbra violacee scoprivano i denti candidi che battevano senza controllo. Le carezzò con delicatezza il viso e Diana aprì gli occhi. Sembrava un cerbiatto spaventato. «Dove siamo?» mormorò lei, guardandolo senza riuscire a riconoscere. «Il mio nome è Tom», rispose coprendolo con la giacca. «Se mi prometti di non muoverti, vado a cercare un po' d'acqua». Diana annuì debolmente e Tom si guardò intorno. Una direzione sembrava valere l'altra in quel mondo color antracite. Sollevò la ragazza e l'appoggiò a una roccia squadrata, sormontata da un albero scheletrico. Cercò di acuzzare la vista, poi si diresse lungo quello che sembrava un antico sentiero, tracciato nell'erba color fuliggine. Passarono una decina di passi per perdere di vista la roccia. Si addentrò in un boschetto di alberi rinsecchiti, anche se in apparenza non morti. Si aggrappava un ragionamento per farsi guidare in quel posto alieno, le cui leggi gli erano del tutto sconosciute. Dove c'era vita, per quanto ostentata, c'era acqua. Non volle neppure prendere in considerazione gli infiniti dubbi che gli si affacciavano alla mente, nel tentativo di farlo desistere dal tentativo. Si inoltrò, non senza timore, sotto i rami deformi e tese le orecchie, nella speranza di sentire il rumore di una sorgente. Si fermò all'improvviso, quando sentì distintamente una voce gutturale e, subito dopo, una seconda, che rispondeva alla prima. Si nascose dietro il tronco dell'albero più vicino. «Dove sono andati i mastini degli abissi?» grugnì la prima voce. Il suono era quello di una raspa rugginosa, ma, incredibilmente, Tom riusciva a capire quello che diceva. Non si chiese come. Si sporse per vedere a chi appartenesse la voce. Nel buio scorse solo due sagome coperte da mantelli e cappucci, leggermente più basse di lui, ma molto più tarchiate. Non riusciva a vedere i loro volti e non era sicuro di desiderarlo. «Sono corsi su, alla rocca», rispose l'altra voce. «Devono aver sentito l'odore di qualche negromante che si è spinto fino al sepolcro di Gremian». «Non credo», scosse la testa il primo. «Lo spettro del re infesta la rocca e il suo odio mortale spaventa anche chi risveglia i morti. È uno spirito troppo potente, anche se non può allontanarsi dalla tomba nella quale è stato sepolto vivo». «Già», una risata agghiacciante. «Nemmeno Thaugott mi convincerebbe a salire lassù». Tom si acquattò e si allontanò dai due. Doveva tornare immediatamente da Diana. A parte il discorso dello spettro, i mastini degli abissi di cui i due stavano parlando avevano con ogni probabilità sentito l'odore della ragazza. Si mise a correre a perdi fiato. Diana Black si sentiva debole. Non avvertiva più l'insopportabile dolore al ventre che l'aveva perseguitata negli ultimi tempi, ma era svuotata da ogni forza. I brividi che la scuotevano le partivano dall'osso sacro e strisciavano lungo la schiena, fino a renderle quasi insensibile la nuca. Da quando quell'uomo dal volto gentile si era allontanato in cerca di acqua, lei aveva tentato di familiarizzare con l'ambiente che la circondava. Quel luogo non le era sconosciuto, le ricordava quello dove erano ambientati tutti i suoi incubi. La cosa che la spaventava di più non era l'aria plumbea o gli alberi color cenere, bensì la sicurezza di essere già stata lì. Si tirò un po' su per guardarsi meglio attorno, sfruttando il sostegno della roccia squadrata, cui l'aveva appoggiata l'uomo chiamato Tom. Il contatto con la pietra le dava una sensazione piacevole, come se fossero state le mura di casa di zio Sylvester. Molto strano. Poi un soffio di vento trasportò il suo nome, sussurrato da una voce lontana e deformato da mille echi. Proveniva da davanti a lei, dove si innalzava, a una quindicina di metri di distanza, una ripida parete di roccia. Brividi di paura si unirono al tremore della febbre nello scuotere il suo esile corpo. Si alzò a fatica sulle gambe senza forza e si fermò qualche istante per attendere che le diminuisse il giramento di testa. Poi si diresse a passo lento verso la parete e, una volta che l'ebbe raggiunta, vi si appoggiò con una mano per sorreggersi. Diede un'occhiata in giro, ma non vide nessuno. Il refolo che aveva trasportato il suo nome era svanito e aveva lasciato il posto a una bruma cinerea che ora le vorticava attorno in un movimento lento e avvolgente. Sentì improvvisamente freddo, quasi che il contatto con la pietra assorbisse le sue ultime forze, come una spugna. Si accorse che nel punto dove aveva appoggiato la mano la roccia era levicata, seppure coperta di sedimenti e crepata dal tempo. Osservandone la superficie, notò che su di essa era vergata, con caratteri strani di una lingua che lei non conosceva, ma che si scoprì in grado di leggere, un'iscrizione. «Qui giace Gremian, ultimo re di Notturnia, sepolto ancora vivo e maledetto a non avere pace, in nome di Thaugot, che aprì la breccia e tracciò la strada, e delle tre confraternite che la percorsero. Ritrasse la mano, perché la roccia che le trasmetteva una sensazione malvagia, ma nel farlo ebbe la strana impressione che essa si muovesse. La osservò con attenzione, e dopo qualche istante le parve di scorgere un volto umano appena accennato tra i segni della superficie. Scosse la testa. Tornò a guardare la roccia, ma il volto era sempre lì, i suoi tratti sagomati da crepe e radici. Le ricordò le immagini che i suoi occhi coglievano nelle nuvole quando guardava fuori dalla finestra di casa. Sembrava che la bocca, o qualunque cosa fosse, si stesse muovendo, ma il suono che proveniva dalla roccia era troppo flebile. «Chi sei?» mormorò. La paura le cresceva dentro con una marea. «Cosa vuoi da me?» La parete tremò davanti a lei e il volto si sgretolò tra le crepe, mentre le lettere dell'iscrizione sparivano e altre lentamente ne apparivano. Era come se una mano invisibile stesse tracciando a fatica i segni da dentro la pietra, rallentata dalla sua stessa consistenza. Diana sobbalzò e si allontanò di un passo, mentre il cuore le giungeva in gola. Si guardò intorno. Quando posò di nuovo lo sguardo sulla roccia, sulla sua superficie si era formata una frase intera. «Ossidiana, figlia mia, dunque la linea di sangue non si è spezzata». Diana portò le mani al volto, ma non disse nulla. Poi la scritta scricchiolò via e ne apparve un'altra. «Non avere paura». «Chi sei?» ripeté, questa volta urlando per farsi coraggio. «Il re che si è fatto seppellire ancora in vita, perché un giorno tu tornassi». Poi, «Sono Re Gremian e tu sei sangue del mio sangue». Re Gremian, uno dei protagonisti dei suoi incubi, insieme a Linerus. «Cosa vuoi da me?» ormai sussurrava. «Tu diventerai la nera, sei qui per vendicare la tua stirpe e reclamare il trono delle tenebre». Diana di un ringhio dietro di lei. Si girò di scatto e intravide spuntare dalla nebbia due animali enormi come alani. Le stavano scrutando con occhi rossi e maligni, da una dozzina di metri di distanza. Le fauci semiaperte scoprivano enormi zanne giallastre e la bava colava lungo il loro muso e giù per il collo. Si avvicinarono lentamente, senza distogliere lo sguardo malvagio da lei. Si fermarono a pochi metri dalla ragazza, flettendo i possenti muscoli che guizzavano sotto il lucido manto nero. La distanza tra Diana e le belve era più o meno la stessa che la separava dalla parete, ma il terrore e l'indecisione la paralizzavano le gambe. Non riusciva a scegliere il male minore tra la paura dei due animali e quella più remota, ma più soprannaturale, dello spettro del suo avo. «Avvicinati». Ora che le belve erano ben visibili, poteva scorgere nelle loro fauci due file parallele di zanne, lunghe come il suo dito indice. Sul muso, appena sopra il naso scuro e schiacciato, si trovava una specie di corno osseo color grigio piombo. Gli occhi infuocati avevano le pupille verticali come i rettili. Non erano animali, ma mostri dei quali non aveva mai sospettato l'esistenza. E stavano per balzarle addosso. Fece un cauto passo verso la parete, poi un altro. Le due belve flessero le potenti zampe anteriori, ma esitarono. C'era qualcosa che le frenava. Diana raggiunse la parete. «Devi solo volerlo». «Volere cosa? Cosa?» urlò lei, mentre la nebbia le vorticava attorno con una gigantesca mano, pronta a ghermirlo. «Raggiungimi». Diana si appoggiò alla parete e cominciò a piangere. Non alzò gli occhi neppure quando sentì il ringhio dei due esseri mostruosi avvicinarsi e il tanfo infernale del loro alito investirle il volto. Tom aveva i polmoni in fiamme. La corsa verso la roccia, dove aveva lasciato Diana, gli aveva mozzato il fiato e irrigidito le gambe per lo sforzo. Quando vide che la ragazza non era più dove l'aveva lasciata, temette che il mondo gli crollasse addosso. Era arrivato lì solo per farsela portare via da sotto il naso? Si guardò in giro. Non c'era traccia di sangue. La nebbia che gli si vorticava attorno limitava il suo campo visivo a poco più di una decina di metri, ma il silenzio vattato che lo circondava fu lacerato da un ruggito profondo e crudele. Quando fu abbastanza vicino da poter vedere oltre il velo di foschia che lo circondava, la situazione gli si presentò per intero nella sua gravità. Due enormi animali, una specie di giganteschi cani neri come la notte, grandi come tigri, erano a un passo da Diana. La ragazza era accovacciata con la schiena appoggiata alla parete rocciosa, con le mani sul viso e il capo chino. Lanciò un urlo disperato per cercare di distrarre gli animali. Per qualche istante parve ottenere il risultato che si attendeva, perché essi voltarono il capo verso di lui, ma rimasero immobili. decise una frazione di secondo, senza pensare alle conseguenze. Si gettò a capofitto verso Diana, cercando di fare da scudo con il proprio corpo. Le belve aprirono le fauci, snudando le due file parallele di zanne acuminate, pronte a ghermirli. In quel momento accadde l'imprevedibile. Una porzione della parete di roccia alle loro spalle cominciò a svanire lentamente. Tom e Diana, che vi erano appoggiati, persero l'equilibrio e caddero all'indietro, trovandosi dentro una cavità buia. Le due belve ringhiarono e si prepararono a balzare all'interno, anche loro per non perdere le prede, ma vennero rallentate da una forza invisibile. Quando riuscirono a spiccare il balzo, la porzione di parete era apparsa di nuovo e finirono per schiantarci il muso sopra. Tom e Diana erano salvi, per il momento, ma si trovavano al buio completo nel sepolcro di Re Gremian, in compagnia del suo spettro. L'uomo con un occhio solo sedeva immobile, sul suo alto trono di pietra vulcanica, immerso nella penombra. All'interno della grande sala scavata nella roccia regnava un silenzio quasi irreale. L'aria era immobile e satura di vapori di zolfo che esalavano dalle sottili crepe del pavimento. A parte il sedile, un enorme braciere colmo di carboni ardenti e un grande pentacolo posto di fronte ad esso, la sala era completamente spoglia. Un altro uomo, di piccola statura e ammantato di porpora, attraversò il grande ambiente con un'andatura lenta e strascicata, come se avesse una gamba al soppo. Quando giunse di fronte al trono lavico, si inchinò. «Inroth, mio consigliere», disse l'uomo con un occhio solo, torreggiando su di lui e scrutandolo torvo. «Perché disturbi le mie riflessioni?» «Shaltul, signore degli abissi», rispose l'ometto, con una voce ossequiosa e melliflua, mentre si inchinava una seconda volta. «Il sigillo è stato messo al sicuro, secondo il tuo volere». «Il sigillo». Il sogno di tutti i suoi predecessori era stato di impossessarsi di quel grimonio di potere arcano. Su di esso, secoli prima, il mago della parola Linerus aveva trascritto gli incantesimi più potenti dell'arte dell'evocazione, molti dei quali erano andati perduti durante la guerra del buio, e poi l'aveva usato per precludere alla sua confraternita il passaggio a mondi diversi da notturni. Ora il sigillo era nelle sue mani, ma aveva ben presto scoperto che, per trascrivere gli incantesimi, Linerus aveva usato un linguaggio mistico che nemmeno le sue sterminate conoscenze gli permettevano di decifrare. Maledetto mago della parola. Ci sarebbe voluto un tempo lunghissimo per tradurli, e forse neppure quello sarebbe bastato. Fece un gesto d'assenso e congedò Inroth. Aveva bisogno di riflettere. Le sue speranze per vincere la guerra del buio erano tutte concentrate su quel grimorio di sapere oscuro. La guerra era infatti entrata in una nuova, in apparenza interminabile, fase di stallo. Le battaglie, pur se via via più cruente, non risultavano mai decisive. Le forze in campo erano troppo equilibrate e qualsiasi vittoria nei confronti di una delle confraternite li indeboliva e li poneva alla mercé dell'altra. Dopo aver rovesciato insieme il trono delle tenebre secoli prima, non si erano fidate l'una dell'altra, neppure per formare una transitoria alleanza a due, con lo scopo di eliminare la terza. Pur derivando tutte e tre i propri poteri dalla breccia aperta da Thaugot e dal male che ne era filtrato, contaminando il loro mondo, i confraterni non potevano essere più diversi tra loro. Gli evocatori che lui guidava traevano i propri poteri dai patti che stringevano con i demoni, esseri provenienti da dimensioni diverse da loro, che potevano essere a fatica imbrigliati e costretti a una riluttante obbedienza. I negromanti avevano imparato i segreti della morte e appreso come strappare i cadaveri dal loro riposo eterno. Nelle catacombe dove abitavano, nell'ovest di Notturnia, risvegliavano eserciti di morti e li armavano per combattere la guerra del buio. Le loro schiere non avevano fine, perché i cadaveri di chi moriva in battaglia potevano essere risvegliati e andavano a rinfoltire le loro fila. Poi i maghi neri. Vivevano nelle paludi malsane nel sud di Notturnia, borbottando gli oscuri incantesimi che li avevano resi folli, ma potentissimi. I loro eserciti erano composti di animali mostruosi, da schiavi umani senza più volontà, dotati di armi incantate. Ogni confraternita aveva enormi poteri, ma non poteva accedere a quelli delle altre due, rendendo la lotta equilibrata e senza fine. Solo la linea di sangue della nera aveva potuto controllare il potere oscuro per intero, ma invece di dominarci i notturni e usarlo come testa di ponte per conquistare tutti i mondi adiacenti, essa si era limitata a costringere le confraternite all'obbedienza. Il destino beffardo aveva voluto che chi era in grado di comandare un potere pressoché infinito si fosse limitato a tenerlo a bada. Dopo aver sconfitto Thaugot, la prima nera aveva diviso Notturnia in tre parti, confinando in ognuna di esse una confraternita, regnando dalla Rocca delle Tenebre, che sorgeva al suo centro esatto. Da allora la linea di sangue aveva concepito una nera per ogni generazione, impedendo loro di alzare la testa. Poi la linea di sangue si è andata indebolendo. I poteri della nera avevano cominciato a saltare una generazione, poi due. Durante il regno di Gremian, che reggeva il trono delle tenebre e la morte dell'ultima nera, si era presentata l'occasione bramata per secoli. La figlia ossidiana non aveva ancora raggiunto l'età nella quale avrebbe sviluppato i suoi poteri. I messi delle tre confraternite si erano incontrati in segreto e dato il via all'alleanza che avrebbe spezzato via il trono e troncato la linea di sangue per sempre. L'illusione di tutti era che i rapporti di forza si sarebbero presto delineati, dando vita a un nuovo regno basato sugli insegnamenti di Thaugrot. Ma erano state speranze vane. La guerra del buio aveva imperversato per secoli, indebolendo le confraternite senza vinti né vincitori. All'improvviso, molti secoli prima, le sue spie avevano riferito che i necromanti avevano catturato un uomo apparso dal nulla, come un fantasma. Era stato riconosciuto come Linerus, il leggendario mago della parola consigliere di Re Gremian, scomparso con Ossidiana durante la conquista della Rocca. I suoi poteri dovevano essere svaniti nel passaggio tra i mondi perché, nelle frammentarie notizie che aveva ricevuto, risultava che non li avesse mai usati, neppure quando era stato sottoposto alle torture più crudeli. Alla fine Vama, il necromante, aveva ordinato di imprigionarlo in pesanti catene di arcanio nella fortezza della solitudine e di abbandonarlo lì a marcire per l'eternità. Shaltul aveva tentato una sortita per liberare Linerus, ma dopo aver subito pesanti perdite aveva rinunciato. La fortezza era troppo all'interno del territorio dei necromanti e il rischio non valeva la candela. Un vecchio pazzo senza più poteri, che non interessava a Vama, non avrebbe interessato neppure a lui. Era stato in rotta a suggerire la strada di percorrere a quel punto. Tentare di rubare il sigillo dal mondo dove Linerus l'aveva confinato. Supponendo che il mago della parola avesse lasciato in custodia qualcuno, in rotta aveva immaginato che il suo mancato ritorno avrebbe portato prima o poi questo custode a tentare di aprire il varco in qualche maniera. Gli aveva consigliato dunque di mettere in allerta tutti i demoni sotto il suo controllo. Essi avrebbero dovuto tentare di rubare il grimorio se ne fossero stati evocati da chi lo possedeva. Dopo anni di attesa, il loro piano aveva avuto successo. Un demone aveva sfruttato un'evocazione effettuata in maniera grossolana e aveva portato il grimorio a Nocturnia, ottenendo in cambio lo scioglimento del vincolo di obbedienza e la possibilità di rituffarsi, libero, negli abissi. Purtroppo Linerus era stato più accorto di quanto non avesse sperato. L'alfabeto mistico con cui aveva vergato il grimorio era impossibile da decifrare. In più, una notizia aveva scosso le sue certezze. Esisteva un erede della linea di sangue. Ecco cosa aveva protetto per secoli il vecchio mago, con l'aiuto dei sigilli. Se questa ragazza avesse sviluppato i poteri della nera e fosse tornata a reclamare il trono delle tenebre, le tre confraternite, indebolite dalla guerra del buio, avrebbero dovuto inginocchiarsi di nuovo. Nel furore che aveva seguito la scoperta, aveva inviato un messo degli abissi sulla terra a uccidere la ragazza, sfruttando il fatto che il suo potere latente aveva reso più labili i confini tra i due mondi. Ma esso aveva fallito. E ora l'erede della linea di sangue era svanita nel nulla. Il volto gli si indurì, mentre il suo sguardo infuocato fissava una delle crepe fumanti del pavimento. Dovunque fosse in quel momento, l'avrebbe trovata e uccisa. Tutto bene? La voce di Tom spezzò la cappa che il buio e il silenzio avevano fatto cadere su di loro. Mi pare di sì, rispose Diana con voce flebile. Dove siamo finiti? Nel sepolcro di Re Gremian, credo, sussurrò la ragazza ancora più piano, quasi non volesse farsi sentire dallo spettro del suo avo. E come siamo arrivati qui? Tom non le chiese come se poi facesse a sapere del sepolcro. Credo di essere stata io. Deglutì e rimase in silenzio per qualche istante. Non è una luce, questo buio mi fa venire i brividi. Hai ragione, tirò fuori di tasca l'accendino che usavo per la pipa e l'accese. La fiammella illuminò il volto terreo di Diana e un piccolo tratto della parete di roccia alle sue spalle. Tom si alzò in piedi e la luce sbiadì le ombre del sepolcro. A una dozzina di metri di distanza da loro, al termine di una stretta fenditura, c'era un cumulo di pietre di grandi dimensioni che doveva aver bloccato l'accesso alla camera mortuaria. Alcune delle rocce apparivano spostate e ora c'era uno stretto passaggio che si inoltrava nelle tenebre. Tom notò una torcia incatramata, infilata in un anello conficcato nella parete, e la prese. L'accendino si sarebbe con ogni probabilità rivelato un prezioso in futuro e non voleva sprecare il gas che conteneva. Quando la fiamma della torcia prese vigore, Tom tornò verso Diana, che era rimasta seduta a terra e scrutava il buio con gli occhi sbarrati. Senza dire nulla, si girò a guardare nella sua stessa direzione. Lungo la parete opposta rispetto alla fenditura dove aveva trovato la torcia, a meno di 5 metri da loro, c'era un piedistallo di pietra alto un palmo. Sopra di esso, seduto su uno scranno, c'era il cadavere di un uomo. Era come se l'aria asciutta del sepolcro l'avesse essiccato e avesse favorito la sua mummificazione. Era abbigliato con un elegante vestito di stoffa preziosa e aveva una corona appoggiata sulla testa scheletrita. La sua mano destra era aggrappata a una lunga staffa di legno ed oro, mentre la sinistra stringeva una grande spada con lezze tempestate di pietre preziose. Sulla lama, vicino all'impugnatura, c'erano incisi di caratteri runici, appena visibili. Il cuore di Diana ebbe un sussulto. Era l'abbigliamento che indossava Re Gremin nei suoi sogni. «Dobbiamo parlare», disse Tom, dandole la mano per permettergli di alzarsi. Diana annuì e si sollevò a fatica. «Sai dove ci troviamo?» Doveva prepararla. Doveva spiegarle che non erano più nel mondo che lei conosceva. «È il luogo dove sono ambientati tutti i miei incubi», rabbrividì. «Ho la sensazione di essere già stata qui, come se ci avessi vissuto un'altra vita. Nel diario di tuo zio ho trovato il termine notturni. Conosci questo nome?» La ragazza scosse la testa. «Ma come siamo arrivati qui?» gli chiese. «È difficile da spiegare. Tom, esita un attimo. È ancora più difficile da credere, perché notturni è un luogo al di fuori del nostro mondo». Diana annuì esitante, continuando a guardarlo senza dire nulla. «Tu sei Silvestre, ha trovato degli appunti di quello che pensava essere tuo nonno, Rineus», continuò Tom. «Lui affermava che crescendo il potere oscuro si sarebbe sviluppato assieme a te, fino a ucciderti se non fossi tornato su Notturni. Perciò ho provato a riportarti qui». «Quindi zio Silvestre è rimasto ucciso a causa mia?» Il lampo di comprensione le strozzò la voce. «Tuo zio ti amava e sarebbe felice di sapere che ora sei qui», le disse Tom. «Solo non sapeva come farti transitare attraverso il barco». «E tu come hai fatto?» «Ci sono uscito solo per un caso fortuito», mostrò il libricino. «Ma direi che è il risultato che conta. Come ti senti ora?» «Un po' meglio, non ho più quel dolore, mi sento soltanto tanto debole». A Tom tornano in mente le parole del medico dell'ospedale, che le aveva diagnosticato una malattia virulenta in rapida diffusione. Non bastava essere giunti a Notturni, dovevano trovare il Nerus e non avevano molto tempo. Si guardò intorno in cerca di una via d'uscita. Non si vedeva traccia dell'apertura che le aveva permesso il loro ingresso. «Hai detto che sei stato tu a farci entrare qui, e sapevi che questo è il sepolcro di...» indicò la direzione della mummia. «Non so esattamente come sia successo», Diana deglutì e cercò di impedire le lacrime che le stavano riempendo gli occhi di scivolarle sulle guance. «So solo che Gremio mi ha detto che bastava volerlo, io...» «Diana», Tom tentò di scegliere con cura le parole per conferire la ragazza. «Tu hai parlato con lui?» Quando allungò il braccio per indicare lo scranno con il cadavere mummificato, Diana scoppiò a piangere. Istintivamente Tom la strinse al petto e la lasciò sfogare. Lei accettò con naturalezza l'abbraccio. Rimasero per qualche minuto così, immobili. «Te la senti di raccontarmi come hai fatto?» le chiese quando fu sicuro che lei si fosse calmata. Per tutta risposta lei si diresse verso lo scranno. Il suo volto pallido era determinato quando si rivolse alla mummia. «Re Gremian», disse ad alta voce, «se è vero che sono sangue del tuo sangue, ti chiedo di aiutarmi». Il silenzio ammantò le due figure, sulle quali incombevano le strette pareti di roccia e le ombre del sepolcro, appena dissipate dalla fiaccola. Poi si udì uno scricchiolio di ossa strofinate sulla pietra. «Chiedi e farò ciò che è il mio potere, ma fai in fretta, perché il mio tempo è breve. Solo la furia mi ha dato gli artigli per rimanere in questo sepolcro, ma ora sento che la fine è vicina e la furia svanisce». Le parole apparvero incise sul basamento sotto lo scranno e nonostante si fosse ripromesso di non farlo, Diana sobbalzò. Tom ammutò lì dallo stupore. «Voglio sapere perché sono qui», chiese Diana risoluta. Tremava. «Tu reclamerai il trono delle tenebre. Tu sarai la nera». «Cos'è questa nera di cui parli?» Non riuscì a nascondere un tono di angoscia alla sua voce e di paura. «La nera è colei che domina il potere oscuro. Piega le confraternite, comanda le legioni dei demoni, guida gli eserciti della morte». «Non potrei mai farlo», singhiozzò lei. «Cosa c'entro io con queste cose orribili? Io voglio solo non soffrire più». «Non si può scegliere come siamo, ma solo quello che facciamo. Nessun potere, buono o malvagio in sé, è la persona che lo usa che ne determina l'essenza». «Come fai a dire che io sarò la nera?» Diana scorse la testa. Non ci poteva, non ci voleva credere. «La falce sul petto è il marchio del potere oscuro». Diana ammutolì e si girò verso Tom. Stava per ricominciare a piangere. Si abbassò un po' la camicia da notte, scoprendo la sottile mezzaluna nera che sembrava quasi brillare lucida sulla sua pelle diafana. La falce. La ricoprì subito, come se celarla potesse avere il potere di farla sparire. da quando è apparsa è cominciato tutto, sussurrò, prima gli incubi, poi il dolore. Gremian, disse Tom ad alta voce, Diana è in pericolo di vita fino a che non diventerà nera. Non conosciamo notturni, devi dirci cosa dobbiamo fare ora. Solo colui che giace in catene la può aiutare. Chi è che giace in catene? Tom notò che la scritta sulla pietra erano sempre meno visibili. Temeva che presto Gremian non sarebbe stato più in grado di comunicare con loro. E dove si trova? Linerus è incatenato nella fortezza della solitudine. E poi, quasi impossibile da leggere, addio, Ossidiana, la furia mi abbandona, vado infine al mio riposo eterno. Non puoi abbandonarmi ora, gridò Diana gettandosi in ginocchio e afferrando lesi le gambe della mamma. Gremian, non lasciarmi! La ragazza sentiva che quell'uomo anziano, lo sconosciuto così familiare che era apparso nei suoi sogni, era l'ultimo parente che aveva. Per quanto macabra, la presenza del suo spirito era quello che restava della sua famiglia. Un gelo improvviso calò su di loro. Poi un gemito di dolore sorse dal nulla e risuonò macabro come una campana funebre. Era l'urlo di un'anima strappata dalla sua dimora terrena e i suoi echi si accavallarono prima di svanire, assorbiti dalle tenebre. La temperatura crebbe di nuovo ed entrambi ebbero la lenta sensazione di essere soli in quella cavità per la prima volta quando vi erano entrati. Diana si accasciò senza forza ai piedi della mummia. Cominciò a piangere.